e a che cos'è che penso. Ti rispondo che non ha importanza, è un'emozione, è una speranza, è un'illusione, è una parvenza di felicità. È un'illusione, è una parvenza.